Beh, senz'altro c'è tutto il tema delle palestre e quindi vi è un progetto scuola che è gestito ovviamente dal commissario e che prevede palestre prefabbricate al servizio delle scuole, perché la priorità è stata ovviamente la ricreazione della possibilità per i bambini di poter tornare a scuola. Dalla scuola siamo ripartiti e vogliamo ripartire dalla scuola, dai municipi, dalle fabbriche, queste erano le priorità. E le scuole ovviamente hanno bisogno delle palestre che poi alla sera vengono anche utilizzate dalle società sportive. Quindi intanto dobbiamo dire che le cose stanno avanzando bene e appunto i campi sono stati liberati, le palestre sono in costruzione e quindi le scuole sono state aperte. Credo che le cose stanno andando bene davvero da questo punto di vista e vi sono contatti anche con l'Istituto per il Credito Sportivo per verificare possibili azioni di ulteriore sostegno appunto alla riqualificazione, alla ricostruzione delle strutture danneggiate. Quindi anche se le palestre e l'impiantistica sportiva non è stata ovviamente la priorità, però diciamo che collegato col mondo scolastico ha subito un'accelerazione anche la ricostruzione delle palestre. Ecco, ci può in qualche modo quantificare l'ordine di grandezza economico di questo impegno? Beh, il progetto scuola che ho citato vale da solo circa 30 milioni di euro, quindi quel progetto che include anche palestre prefabbricate.